Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Io sono sempre qui ad aspettare il 3%. Sì, perché mi avevano promesso, questa è stata la moneta di scambio, l'allettamento. Vai lì che c'è il 3% di donne in più. E aspetto, aspetto fiducioso. Ma perché aspetto le donne? Non è che le aspetto perché sia un mandrillo maniaco compulsivo, né le aspetto perché abbia particolare interesse o desiderio di conoscere nuove donne. Già esistono i social network per questo, funzionano benissimo. Se uno vuole può mascherarsi, può simulare, può fingere, può essere bellissimo, può essere poeta, può essere romantico, può essere bandito, può essere ciò che vuole. No, io cerco questo 3% perché mi interessa il loro punto di vista. Dove siete 3%? 3% le donne che ascoltate a quest'ora la radio, voi che improvvisamente siete diventato il terreno di combattimento su tutte le dispute. Già ne parlammo, il grande cosmico combattimento fra Oriente e Occidente si gioca sul corpo delle donne. Il meschino, futile, transeunte combattimento sulla nostra mesta situazione politica nazionale contemporanea si gioca sul corpo delle donne. Ma voi dove siete? Chi parla per voi? Chi è autorizzato di parlare a nome vostro? Cosa avete da dire? Dov'è la vostra voce? 800240024, cominciate a chiamare sin d'ora e ditemi chi avete delegato di parlare in voce vostra, chi deve prendere le vostre posizioni, a chi avete dato la assicurazione che ciò che dice a nome vostro è esattamente quello che voi volete. Io comincio a dare qualche piccolo segnale di quella che è la risposta che le donne che hanno ascoltato la puntata di ieri hanno mandato un loro messaggio su un mio dimenticato supporto di memoria che usavo molti anni fa quando facevo ero agli albori di questa trasmissione la mattina presto. Era una vecchia muffita che pensavo non funzionasse più, segreteria telefonica, che rispondeva al numero 800 28 11 11. La davo tutte le mattine, chiamate all'800 28 11 11 perché mi chiamavano durante la notte. Beh, qualcuno se n'è accorto, come se fosse un messaggio che viene da una dimensione parallela. Alcune donne hanno fatto sentire la loro voce senza che nessuno l'avesse chiesto, lasciando un'idea di ciò che loro fanno a quest'ora in cui parlo, mi arrabatto, mi arrampico sugli specchi, chiamando appunto all'800 28 11 11. Per quello che riguarda l'ora, noi donne o stiamo cucinando, se siamo in anticipo stiamo impiattando, cioè il tempo non è propizio. Chi è come me, singolo, non nessun orario, la mattina esco, normalmente sei mattina sono rimasta per ascoltarti la prima volta, ma esco e vado a fare shopping e fino all'una, all'una e mezza, non chiudo negozi, non rientro. Le altre che devono stare in casa a far da mangiare i mariti, e alla mezzogiorno e mezza sono ai fornelli, sono a far da mangiare, anche se ti ascoltano, ma non possono prendere il telefono per intervenire, perché sennò non preparano il pranzo e poi il marito brontola se gli dicono sono intervenuta da Nicoletti. 800 24 00 24. Come? Se cucinate e impiattate non potete telefonare, non potete ascoltare la radio. E dov'è il progresso multitasking? Dove sono le donne che spadroneggiano e vanno repentine per la rete facendo mille cose allo stesso tempo? Vi ho visto smaneggiare i vostri smartphone, vi ho visto rispondere ai vostri messaggi, vi ho visto eludere i messaggi clandestini. E perché non potete ascoltarmi? Non potete dare il vostro segnale? 800 24 00 24, chi avete delegato a rappresentarvi? E passiamo a quella che secondo me è una notizia che merita approfondimento, che riguarda molto il problema di cui stiamo parlando. La delega delle donne a rappresentarle. È accaduto nella giornata dell'altro ieri, ne hanno parlato ieri ampiamente perché è andato a Striscia la Notizia, che è un programma di grande diffusione, che ha alcuni conti in sospeso da fare con le donne organizzate, con le donne delegate, perché ci fu una campagna un anno e mezzo fa circa, fortemente, quando vi ricordate, c'era il movimento se non ora quando, le donne scendevano in piazza, si stracciavano le vesti, si radunavano, urlavano, se non ora quando, era per la difesa del corpo delle donne, poi almeno come manifestazione di piazza se lo sono dimenticato, sì, perché probabilmente il vettore ultimo dell'attenzione, del vilipendio cosmico al corpo delle donne era piuttosto depotenziato. Ciò è accaduto a un festival molto importante, il Festival del Diritto a Piacenza, che non vi lasciate confondere dal nome, il Festival del Diritto non è una gara di resistenza virile, no, è un festival molto importante, è un festival il cui curatore scientifico è Stefano Rodin. Rodotà. Stefano Rodotà, ricordate, era il candidato alla presidenza della Repubblica da parte del Movimento 5 Stelle, salvo che poi, come aveva preso le distanze, fu chiamato ottugenario miracolato dalla rete, da Beppe Grillo. Rodotà cura il Festival di Diritto. Al Festival di Diritto va Laura Boldrini, presidente della Camera, che in questo momento ha un acceso dibattito proprio sul tema delle donne, del corpo delle donne, della gestione del tempo delle donne, proprio con Beppe Grillo. Grillo l'ha definita oggetto di arredamento al potere e le ha detto a Grillo: sei un talebano. Perché? Tutto, pensate, il problema è il definire lecito, giusto, corretto secondo una visione contemporanea, il fatto che le donne servono a tavola ai loro mariti, stiano a cucinare, facciano esattamente quello che le ascoltatrici fanno secondo quello che hanno lasciato nella loro segreteria telefonica. A quest'ora cosa fate? Cucinate, facciamo il sugo, spiattiamo. Dovete sentire delle emarginate, dovete sentirvi persone che appartengono a un'altra civilizzazione, o perlomeno avete possibilità di contemporaneamente dare una prova, un cenno della vostra esistenza. Avete possibilità di accesso ai grandi luoghi del sapere condiviso. Possibile che girare il sugo vi renda impossibile prendere uno smartphone e fare un numero di telefono, lasciare un messaggio su Twitter, dare vostra presenza nel vostro profilo Facebook, mettere una bella foto di voi magari in un momento più accettabile rispetto a quando vi mettete un fazzoletto in testa perché dovete friggere le patate e il fritto, si sa, impregna i capelli. Cosa è accaduto durante il Festival di Diritto, che non è una gara di resistenza virile, ma un avanzatissimo convegno sul punto riguardo al diritto? È accaduto che Valerio Staffelli, incursore di Striscia Notizia, ha dato un tapiro a Laura Boldrini. Io sono venuto a dirle che insomma lei è sempre in prima fila a combattere per i diritti della donna e la sua dignità, che è una cosa bellissima. Però ho lavorato per 3 mesi come assistente alla produzione di questo programma, sì. Ma lì c'erano delle donne che ballavano con tutti i sederoni fuori. Infatti la mia carriera è durata poco. Però non trova che sia incoerente con quello che lei adesso professa da femminista combattente? Assolutamente no. Sono venuta a assolutamente no, assolutamente no. Però io mi auguro che lei a casa si comporti bene. Io sì, mi comporto come sono meglio di quanto ti stavo. Naturalmente è una guerra di armi non convenzionali, stanno usando le armi chimiche. Oggi infatti la notizia viene cavalcata ampiamente dai due giornali che bene o male rappresentano un punto di vista opposto rispetto a quella del presidente della Camera. Il giornale titola "Striscia smaschera la Boldrini" e il fatto Libero, scusate, "La Boldrini non vuole le miss ma lavora con le veline". Qual è la colpa di Laura Boldrini? Di aver fatto l'assistente ai programmi, la passacarte, non so bene, un programmino degli anni 80, anche divertente, dell'85-87 mi pare, di Pingitore, quello del bagaglino, dove c'erano era un programma di varietà, era il periodo che c'era ancora l'onda lunga di tutta la visione arborea della televisione, che guarda caso oggi viene impugnato come l'icona più splendida della nostra civilizzazione televisiva. Però Arbore aveva portato ragazze che naturalmente facevano ragazze coccodè, che erano altrettanto spogliate. In questo programma cocco il punto di richiesta di coerenza al presidente della Camera è che ci fossero delle ballerine che ballavano, dice, con il tanga, ma in realtà avevano dei mutandoni che oggi non metterebbe manco una signora che deve nascondere le varici quando va dal dottore a farsi visitare, figuriamoci. Però viene considerato un punto di non coerenza. Lei non è stata coerente, oggi ha applaudito alla chiusura di Miss Italia, che già aveva comunque dei terribili braghettoni, però nella sua giovinezza c'è questa ombra, ha partecipato a cocco. Ma io non vedo innanzitutto questa necessità di essere sempre coerenti. Uno non può cambiare idea, uno non può sovrapporre il suo modo di pensare, ma perché pensiamo che in realtà sia una mancanza di coerenza il fatto di aver lavorato in un programma dove c'erano delle ragazze in mutande? Ma veramente il problema delle donne oggi è essere rappresentate in mutande. Angela, buongiorno. Buongiorno. È questo il problema? No, non è questo il problema, perché non lavoriamo tutti in televisione, fortunatamente. No, quindi, purtroppo, perché si guadagnano tanti soldi. Lo so, ma non sono magari tutti d'accordo a mostrare il sedere. Lei è d'accordo a mostrarlo o no? No, non sono d'accordo, magari non sono adatta a farlo, magari mi vergogno, magari... O solo a chi merita in certe situazioni. O solo chi merita, poi chi se la sente, chi non se la sente. Ma in assoluto Angela, pensa che veramente il problema in questo momento divide l'umanità, sia a livello mondiale, sia a livello particolare, sia il diritto meno delle donne di mostrare il sedere? Ma ma magari c'è chi lo vuole fare, ma che lo faccia, ben venga. È libero, è libero di mostrarlo chi vuole mostrarlo. È libero di mostrarlo. Però, come ho detto prima, fortunatamente o sfortunatamente, non lavoriamo tutti nello spettacolo. E quindi noi donne ci dobbiamo arrancare in tutti i modi, ci dobbiamo difendere da sole. Prima lei diceva a chi abbiamo dato la delega, a nessuno, perché noi se non ci difendiamo da sole non ci difende nessuno, sul posto di lavoro, a casa, ma dappertutto. Questo quindi succede. Angela, secondo lei è un falso problema farsi paladini in questo momento della dignità del corpo delle donne? Le donne il loro corpo lo usano in maniera degna o indegna, ne fanno l'uso o l'abuso che vogliono, è lecito che lo facciano, nessuno può fare il moralista alle altre donne, tanto più le donne. È d'accordo? Stiamo andando avanti perché nella pubblicità vedo che piano piano stanno togliendo il corpo delle donne, perché prima anche solo per il caffè facevano vedere... ma venderanno meno caffè però, non so se questo è bene. Chi se ne frega, però perlomeno non vediamo tette e culi dappertutto. È perché lei è brutto anche vedere tette e culi. Scusi Angela, è qualcosa di fastidioso? Ma magari ci sono i bambini, magari ora... I bambini si vedono tette e culi, cosa succede? Non crescono? Cena, ma in qualsiasi momento, c'era un periodo... Perché manda via l'appetito vedere tette e culi? Ma no, non è che manda via l'appetito, ma insomma uno vuole guardare una televisione un po' carina, un po' qualcosa di diverso. Ma carina non è una parola vergognosa, mi scusi, carino è qualcosa di finto, di ipocrita. Vabbè, ma neanche vedere tette e culi. Vabbè, lei ha il punto di vista, lo rispetto. Rita. Salve. Allora, io niente, ho chiamato perché lei ha citato poco fa le casalinghe, no? Eh sì, è un altro oggetto del contendere, oltre alle donne che devono stare attente, mettersi i braghettoni, guai se fanno vedere tette culi, ma possono fare quello che voglio, o perlomeno guai se questo mostrare tette culi diventa una sorta di mercimonio a favore del maschio, mi sembra situazioni talmente antiche, talmente lontane, ma allo stesso tempo guai nell'immaginare una donna una situazione che per qualcuno può essere anche piacevole e soddisfacente, di fare la casalinga, di occuparsi della casa, di spiattare, come diceva prima l'ascoltatrice, e fare il sugo a quest'ora, non c'è niente di male o c'è molto di male? No, assolutamente no, ho telefonato proprio per ribadire una cosa. L'essere casalinga, io non sono una casalinga, lo premetto, io lavoro fuori e lavoro in casa. Non è assolutamente una vergogna perché non mi sento neanche bistrattata, perché sono un ruolo che io mi sono scelta a casa, adesso sono sposata, e il problema è che mio marito non mi tratta da casalinga, e questa è la cosa più importante. La tratta la regina? Non da regina, però io sono la sua compagna in tutto e per tutto, quindi a casa ci siamo divisi i compiti, io lavo, stiro e faccio i piatti, e lui magari si occupa dell'auto quando non mi va. È un omino di casa suo marito? Sì, diciamo di sì. Vabbè, l'omino di casa al suo fascino, poi non capisco perché. In un momento in cui i modelli erotici più percorsi, più allentati, sono quelli proprio di attori che simulano delle situazioni normali, familiari, casalinghe. Se io scrivo amatoriale accanto a un video dove riprendo il microfono in cui sto parlando, ci sono centinaia di persone che lo vanno a vedere, che pensano che lì sia raccontato e rivelato l'intimo segreto di ogni casalinga. Melog, cronache meridiane. Cocco cocco dei mi vida, la mia bocca ancora grida, cocco bello vieni qua, cocco cocco eccitante, si tu chiere, si in un istante la mia sete finirà. E beh, dov'è il dramma, dov'è il problema oggi? C'è un paginone intero di Francesco Borgonovo, che questo dovrebbe inchiodare il presidente Laura Boldrini, qui non sto qui a difendere assolutamente, non me ne verrebbe assolutamente nulla, che... Il fatto di aver partecipato, ma sapete cos'è una produzione Rai? Significa che ci saranno centinaia di persone, magari chi tiene la penna, chi tiene il foglio di carta, chi decide dove si acquista la penna, chi va a acquistare la penna, chi pensa la fibra della carta, chi trasporta il foglio di carta da un posto all'altro. Pensate come sono distribuite comunque le responsabilità morali di un programma. Beh, questo dovrebbe mettere con le spalle al muro la presidente Laura Boldrini del fatto che lei si sia fatta in maniera, devo dire, molto ideologica, questo è indubbio, paladina di una sorta sorta di riscossa delle donne che passa attraverso innanzitutto la demonizzazione di ruoli stereotipati in televisione, non più caroselli figuriamoci, non più pubblicità in cui la donna ha un ruolo servile nei confronti dell'uomo, e soprattutto attenzione alla scopertura eccessiva delle parti femminili, perché ciò rappresenta ancora una volta con piacere una sorta di voyeurismo maschile. Ma avranno diritto le donne di spogliarsi quanto vogliono? Se è un mestiere spogliarsi, perché una donna non può spogliarsi? Se è un mestiere fare la testimonial del caffè con le tette in mano, perché una donna non può farlo? Se questa può essere una svolta per la sua vita, cosa ne pensa Ketty? Sì, salve, io volevo soltanto raccontare un piccolo aneddoto. Brava. Non so se siete al corrente che adesso per Striscia la Notizia ci sono i velini. E le piacciono? Beh, insomma, sono due bei ragazzi. Ci fa una bella bavetta, ma è giusto, scusa. No, beh, allora... che c'è di male? L'altra sera stavamo guardando Striscia la Notizia, allora mio marito voleva girare perché a lui non ma interessa. Ma scusi, negli anni in cui suo marito ha... negli anni in cui suo marito ha costruito il suo immaginario erotico coniugale sulle veline, lei non ha detto, non ha avuto nulla da dire. Appunto, io dovevo subirmi le veline. Brava. Adesso ti subisci tu i velini per un po'. Ma è una vista piacevole, non è spiacevole? Sì, infatti. Vede, perché gli uomini per tanti anni sono stati quello demonizzati? È bello. Sia in un senso che nell'altro. Mi sembra logico, questa è la risposta. Vedete che le donne, quando nessuno si prende la briga di essere il delegato delle loro opinioni, esprimono opinioni molto, molto semplicemente basiche, non si vergogna Ketty di dire che il bel tarallo muscolato le dà comunque una piacevole sensazione digerente allora in cui lo guarda su Striscia la Notizia. Wanda. Buongiorno, io volevo completare in qualche modo l'esempio della signora precedente. Io ho 71 anni, ho lavorato nel software, che è un ambiente notoriamente moderno, spregiudicato e up to date. Si lavorava tutti in open space, le scrivanie dei colleghi maschi erano tutte tappezzate di donne nude, tette, culi. Ma che anni erano, scusi? Perché tette, culi sono offensive. No, in che anno era, Wanda? Perché? Anni 80. Cioè negli anni 80, nei lussuriosi edonisti anni 80, gli uomini ancora avevano le foto da camionista, e non si offendano i camionisti, sulle scrivanie. Effetti. Ma no, che ufficio era? Di cosa lavorava? No, mi interessa la fattispecie. Sì? Qual era l'oggetto merceologico che trattavate? Software. Ma scusate, ma... Non esisteva internet, no, quindi... sì, beh, è venuta dopo, erano gli albori, non c'era di sicuro tutto quello che quindi c'era adesso. Ancora il supporto cartaceo all'attività amanuense maschile. Sì, addirittura con le schede ho lavorato io negli anni 70. Allora, cosa accadeva? Puoi immaginare. Aspetti, allora, in tutta questa esibizione di tetti e culi, noi donne dovevamo fare le spregiudicate, non rilevare, non eccepire, perché altrimenti saremmo state giudicate bacchettone, eccetera. Allora, una mia collega, un po' più furba delle altre, a un certo punto ha tappezzato la sua scrivania di pin-up boys, non nudi perché non esistevano, però a torso nudo, col muscolo in evidenza, eccetera. C'è stata una levata di scudi tremenda, gli uomini Non si vedeva lo stelo di Giada, come si dice nel Kama Sutra, però il resto sì, c'era sì, tutto. Sì. Gli uomini erano offesissimi di essere trattati da pin-up boys, mentre noi non dovevamo assolutamente sentirci offese dall'esibizione di tette e culi. Ma Wanda, l'uomo non vuole il confronto, lei non lo sa, noi uomini siamo come bambini. Perché la donna lo deve volere? Ma infatti, se lei che deve dirmelo, io non mi prendo la briga di rappresentarla, le do spazio. Io dico semplicemente che l'esibizione di tette e culi, così, soprattutto se fatta a sproposito, c'era addirittura una pubblicità radiofonica. Sì. Che aspetti, cosa fa? Non mi dica che alla radio si possono vedere queste cose. Sì. Il software gestionale era trattato con un tono, una coppia che con toni molto morbidi e molto. Sì, ma molto ecco il punto, Wanda, ho capito. Pieno di doppi sensi. Ma le dà fastidio il doppio senso? Ma perché le dà fastidio il doppio senso? Perché non si può vivere. Scusi. Era, soprattutto negli anni 80, era troppo insistito, troppo esagerato. Non si poteva vendere. Anche l'attacca tutto era venduto da una. Wanda, negli anni 80 nasce la TV commerciale. La cui cifra essenziale era questa, una sorta di visione idilliaca, fantastica, il paradiso terrestre del consumatore, che il consumatore, siccome allora era targettizzato come un uomo che aveva potere d'acquisto, viveva in questa sorta di universo di bambole gonfiabili. Poi dopo è iniziato a pensare che esiste anche un pubblico femminile che consuma, che compra, e quindi è cambiata un po' l'articolazione. Ma noi siamo ancora schiavi di quella sorta di sogno, quasi incubo, perché è un incubo. Camilla. Camilla quale? Ecco. Camilla da Torino? Veloce, perché sennò la sega la sigla. Sì, certo. Allora, io ho 62 anni, ragion per cui teoricamente dovrei essere una femminista sfegatata, perché io il femminismo invece l'ho vissuto. Invece? Lo dica in una battuta. Guardi, è tutto molto ridicolo. Sia nel fatto che venga adoperato il corpo femminile, può benissimo essere adoperato. La maggior parte... Ecco, ci fermiamo in questa fase, la prendo come frase lapidaria, sarà l'inizio della prossima puntata. Il corpo femminile può anche essere adoperato. Da chi volete voi?